sbagliati apparecchi, non è solo una tua sensazione, è una sensazione un po' di tutti, di sentire la voce riprodotta attraverso una registrazione. Un conto è sentirsela con le proprie orecchie, insomma, in diretta, in live. Un conto è riascoltarsi una registrazione. Nel 95% dei casi tutti dicono sempre la stessa cosa, che non si piacciono, quindi è una considerazione molto comune. Adesso te la registro io la voce, avanti, Dubrope. Aspetta che Marcolino ti manda il vocale che gli ho mandato, che ci sei anche tu, così almeno ti fai un'idea. E a cappa, dai, adesso mando questo a Marco. Vabbè, io ho registrato quasi 2 minuti di roba, quindi magari se lo sta ascoltando bene, dai. Sì, ascoltato. Allora, quel baracchino Bombolo risulta molto occupo, cioè, c'è una predominanza notevole di bassi, perché quello lì, quell'apparecchio che ha Gianni, riceve con toni più bassi. Vabbè, poi la voce di Gianni è la sua, e devo dire che la mia è molto, ma molto, paurosamente fedele all'originale, questo apparecchio. Credo che Gianni possa confermare, quando sente la voce in verticale, credo che siamo lì comunque. Te lo sto dicendo. Si avvicina parecchio, ecco perché ti dico che il suono di questo apparecchio mi piace, perché è abbastanza fedele, cioè, nonostante sia quello che è, comunque è abbastanza. Poi considera che ci ho attaccato un altro parlantino di quelli da satellite, da PC, insomma, a livello di frequenze ci sta, dai. Vabbè, ti ho mandato l'audio, quindi la registrazione fa fede a quello. Avanti, Antonio. Kappa, stavo facendo sentire anche la mia differenza con l'Alfa Yeti Zeus, non lo sto registrando, a vedere come la differenza c'è. Adesso lo posso parlare lui proprio dal mio baracchino, a farglielo sentire. Quasi che ci sia differenza da baracchino a baracchino, da cellulare a cellulare. Sì, scusate. Ma chi è che sta messaggiando la mitraglia? Aspetta, porca miseria. Sono io, ti sto mandando le cose. Aspetta, sta registrando un audio, un altro, HPD. Uno è stato eliminato, uno è valido, uno è il bip mio, e poi... Ti ho mandato, giralo ad Antonio, così almeno si sente. Bombolo, ti socciamenti. E avanti. Senti così, è uno che sembra che stia camuffando la voce. Che ha dato si intende anche uno in oggi? Non c'era quello di ieri, no? Quasi. Qualcuno col portatile, che ne so io. Adesso ascolto il messaggio di Antonio, dai. Stiamo facendo un po' di casino, però aspetta. Con calma gesso. Volevo dire solo a Gianni che, Gianni, di contare che comunque il 3009 riceve più acuto. Se io metto un apparecchio che riceve con i toni più bilanciati, tipo il 5005, tu risulterai ancora migliore in timbrica. Ok, adesso ascolto il messaggio. Bianco, per me. PHK? Sì, la timbrica c'è, è un po' barattolosa la registrazione, un po' barattolosa. Forse perché l'ho messa troppo vicino. Comunque non ti preoccupare, io mi sono già ascoltato. Dovrei cambiare le corde vocali, come ricambiano le vendono, in varie tonalità, basso, baritono, capito, tenore, non si può però, vai Gianni. Sì, bisogna fare. Ciao, buonasera a tutti. Chi è che ha parlato? Un bel maschione. Aspetta, chi può essere? Perché non riconosco chi è. Lo senti che sono io che ti sto fregando? Tu sei, sempre tu. No, perché non sto guardando il segnale, Anto. Sto guardando il displas. E quindi ero... Non sto guardando il segnale, dai. Anto, mi ha attaccato, sì. Ma cosa? No, sto chiedendo, siccome sento la voce un po' satura. Già, lo so, è già un grido, già. Sono un pochettino attaccato. Ah, ecco. Quindi c'hai... La suffetta a scaldare. È freddo ciò stanotte, quindi me l'ho accesa. Perché arrivi a fondo scala qua? Ma andiamo su con a fondo scala. È poca potenza adesso. Com'è? Adesso la radio ha migliorato. È meno compressa, dai. E cappa. Adesso sono con 3 watt. Bene, bene, io ti ascolto meglio, vabbè, te l'ho detto che siamo a portata ottica, quindi magari Marco ci può dire la differenza. Poca differenza c'è, cioè, siete tutti e due incollati, aspetta che vi attenuo, ecco, voglio attenuare vedere. E vedete come arrivate, via! Ora io ho solo 3 watt e mezzo, dai, fai. Lui ne ha un po' di più, com'è? Come? Allora, lo strumentino mi dà circa 8 watt in uscita. Ne ho molto molto di meno. Allora, attenuati, Santiago 3, circa, identici, tutti e due identici, siete pari ex equo. Bene, bene, va bene così. Allora, amare, la ragazza di Ducato. È così attenuato com'è? Vai. 2-3, prova. Allora, qua Santiago 6, però non è coerente. Non è coerente, perché allora attenuato da liscio dovresti essere 4, hai attaccato 6. Prendila per buona, questi sono baracchini. Comunque la differenza c'è, è notevole. Però, Anto, siamo sempre lì, stiamo facendo le prove a 500 metri, no, non fa testo, dai. Lo so, vabbè, era solo una prova così, vabbè, io ho 3 watt adesso, lui ne ha appena di più di me, va bene, dai. Uia, no, vabbè, le abbiamo già fatte i tempi che furono queste prove, quindi era giusto, perché c'aveva lo scaldino attaccato, era giusto per quello, poi no problem. Noi intanto la radio qua è sempre quella, quella c'è e quella usiamo, e fino adesso sta facendo il suo dovere. Cosa volevo dire? Io adesso mi assento un attimo, perché a parte quello che ho mangiato, mi sono mangiato anche salsiccia di tipo napoletana piccante, quella molto piccante, ma mi ha messo un bruciore di stomaco che non vi dico, quindi adesso dovrò appigliarmi un po' di citrosodina. Riprendi Gianni. Ah, un bel bicchierino di abbardente, vedrai che ti metti a posto, dai. Ma se è ardente anche quella è peggio, mi brucia più che male lo stomaco. No, citrosodina dico così, no, è quella costa, è effervescente brioschi, e poi è bicarbonato mica alla fine. Eia, sì, io anni addietro mi ricordo che per casa prendevo il barattolo in alluminio col coperchio giallo, citrosodina proprio a granelli bianchi. Ogni tanto la si usava proprio in situazioni di quel tipo lì, con una leggera fragranza al limone, se non sbaglio, aromatizzata al limone. No, faccio la miracoli, dai. Buona, è buona. Quindi, adesso Anto, che se si può dire che apparato stai usando? Proietti Zeus, è quello omologato. Ah, ok. Mentre l'altro, quello che c'è il bip strano, che apparecchio è? Un jack 550 power. Ah, sto facendo 4 watt adesso. 3 watt e mezzo, dai, 4 watt, non di più, eh. Ehi, ehi, va bene, va bene, va bene. Tanto adesso hai anche migliorato con l'antenna. Hai aumentato sia in ricezione che in trasmissione, quindi sicuramente sentirai i vantaggi, dai, rispetto a come l'hai messo prima. Beh, già lo grido, l'ho anche sollevatalo. Adesso io sento tutti bene. No, sono arrivato, adesso mi metto a lavoro però. Buonasera Luca. Arrivato in Canada. Ecco, detto in Canada, in Canada. Cosa è successo? Luca c'è. In Canada. No, mi ero sentato, ho sentito un bip, Luca era entrato. Sì, sono a casa, dai, riprendete voi, se ci siete vi fate compagnia, perché devo lavorare adesso, dai. Niente, l'ascolto volentieri. Poi se finisco prima magari riprendo, dai, a dopo, ciao. Via. Adesso mi sono preparato la pozione e proprio procedo, dai. Stavo finendo gli argomenti, però fine serata diventa un po' una forzatura quasi stare in radio. Dai, riprendete Antonio e Gianni che mi bevo la pozione di Asterix. La pozione di Panoramix, anche io ho inserito il bip standard, che sicuramente è uguale a quello di Marco. No, il mio è diverso. Vabbè, 3009, con questo è più o meno della stessa parrocchia, dai. Il suono del bip, del Roger Bip, credo che sia uguale. Siro, vede il tastino? Sì, mi sembra averlo inserito. Datemi conferma. Sì, si sente bip. Ruia. Ah, attendo il mio bip di oro, attendo, va. Cambio apparecchio. Sì, cambierà qualche decina di hertz, mi già. Bisognerebbe sentirli vicini. Più o meno si avvicinano, dai. Magari c'è giusto qualche spiccio di differenza, ma sono molto molto simili. Sì, poi c'è la tolleranza dei componenti. Comunque ho ascoltato apparecchi simili al 3009, no? Pluto e non solo, tutti quegli apparecchi di questo tipo tuo mio. E ci sono variazioni notevoli in certi, certi vari anche di qualche centinaio di hertz, però non so se sia per le tolleranze appunto dei componenti, del bip oppure altri motivi, scelte, boh. Però grosso modo il risultato è quello, dai. Eccolo qua. Mi lui con il bip stravagante. Diverso a tutti gli altri, Ciao, la belletta di quasi 10 anni questo apparecchio. Adesso quanto ci tengo? Aspetta, qual è quello? L'Intec 550 power. Sì, perdonami Anto, te lo richiedo ogni volta, ma mi dimentico puntualmente che apparecchio è. Sì, mi ricordo che a differenza dei normali Intec, il power aveva la possibilità di scegliere tra tipo 4 watt e 20 watt o 25, sempre però facendo la modifica, perché nasceva omologato e per farlo a 20 o 25 watt devi fare la modifica, tu l'avevi fatta. Questo mi è arrivato così com'è dalla casa, me l'avevo comprato a Milano da Tecnocomunicazione. Sì, perché quello volendo si può aumentare, poi spero sia selezionabile, bassa e alta potenza, perché se è fissa no, è un peccato, non puoi pilotare nulla nemmeno, capito? No, ma questo lo tengo così. L'eco è quello di serie. Tutto di serie, anche il microfono. È tutta roba di serie, non è stato mai modificato nulla. È quello che c'è, il bip finale mi subisce a MOSFET. Ah, ok. Ehi, dopo me lo riguardo meglio, dai, trovo una foto a fuoco. Gianni, riprendi. Ehi. Preferisco, a livello di orecchio preferisco questa, Anton, rispetto all'altra. A livello di suono e di modulazione. Rispetto all'altra che stavo usando poco fa. Sì, vabbè, un'altra cosa e ho... un'altra cosa, chi dell'Alfa Yeti Zeus è quel baracchinetto piccolino che c'ho da tempo, c'ho sempre quello, è anche bellino, c'ha la mascherina tutta del colore argento, c'ha, è anche una bellina radio, e questo è un'altra cosa, sì, questo è il top. Mentre stai parlando ho sentito un'altra portante, magari c'era qualcuno che voleva entrare. Avanti, chi vuole entrare sul 10, buonasera. Non lo so, no. Ma non mi ha passato, no? No, ho sentito comunque un'altra portante. Magari, c'era qualcuno che voleva entrare, comunque già siamo qua, dai. Sì, scappa, qualche uomo. Va bene. Cioè, ce l'ho tanto tempo, ce l'ho. Una persona mi ha rifatto il connettore da poco e lo ringrazio. Perché me l'ha fatto anche molto bene, me l'ha fatto. Perché ci tengo molto queste radio, capito? Ce l'ho da un sacco di anni. Adesso appena che posso me ne prendo qualcun'altra. Però adesso la possibilità non ne ho. Resta così. Bene meda. Si spreme, io la chiamo la macchina a vapore. Basta farla andare a manetta e poi nel caso si cambia. Scappa. Io mai boccio rigaccia a viti come fanno certi, che pigliano e smontano, ecco, sono tutti originali, da quando me l'hanno dato a me, sono tutti originali. Questo lo sai cos'è il bello? Quello che questo se voglio io ritorna normale. Ehi, no, vabbè, questo qua è come mamma l'ha fatto, come si dice, a parte la piccola modifica che aveva fatto Marco, vabbè, di aprire leggermente la, come si dice, la potenza, dai, che poi è molto ridotta, visto che adesso, te l'ho detto, sto uscendo con circa 8 watt, perché se provo a smanettare sulla resistenza variabile mi dà i picchi negativi, quindi ho preferito chiuderla un po' e così va molto meglio. La modulazione che ricordi avevo fatto, Gianni? Babà, c'è un radio a me. Ehi, e provo a farmi sentire un po' questa, da. Allora, qui tu già sei più bilanciato come modulazione. Cosa stai usando? Il presidente di Trump? No, prima, questo è il presidente Biden. Tu manca una meraviglia, va. Immagini, manco fatto il presidente, già fatto il baracchino. Ho sentito che Trump sta accusando brogli contro brogli, cioè o sono veri o non vuole ammettere la sconfitta. Niente strana, Adesso la sento, la differenza rispetto al 2009, sembra più radiofonica, molto più FM come suono, risulta molto più radiofonica, appena compressa forse l'apparecchio che ha determinate regolazioni. Se mi dai qualche secondo ti registro e ti faccio sentire la differenza. Va bene. Tanto mi per passare il tempo, poi alle 9 ci diamo la televisione selvaggia e c'è una sfilza di film da vedere, Millennium 4 e tanti altri. Partition, Marco, ci ascolti questa piccola stazioncina, prego. Ottimo, 9 più 25, eri tu che avevi breccato sotto, che non riuscivi a entrare? No, io. Ciao Marco. Però non ti ho riconosciuto, con questo apparato non ti ho riconosciuto bene, forse c'è anche un po' di saturazione di demodulazione, chi è? Sono il bello della frequenza. Il bello, ognuno si ritiene bello, è difficile dire chi può essere, ma Tino tu sei. Io Marco. No, ti spiego, ti sto usando un presidente che ha una timbrica ricezione diversa, ma la saturazione c'è nella modulazione tua, la sento. C'è? No, non si direbbe perché sono a minimo. Saturo quando insomma aumento. Ciao papà Tino Francesco Muscolo, buonasera. Marco, ho avviato la registrazione, così ti mando il vocale per farti sentire la differenza. E così ti rendi conto più o meno delle differenze che ci sono con l'altra radio. Dai, comunque, rinnovo la buona seratina, avanti. Non è uscito questo, ciao già, questo Francesco. Ho detto papattino Francesco. Vabbè dai, sono tratto a salutarvi. Ciao Antonio. Niente, devo scappare che è quasi pronto a mangiare, altri 2 minuti e poi vado. Papi, buonasera. Sei più forte comunque. Perché ho sollevato l'antenna e mi arrivi più forte il segnale. Sono contento, ok, sono contento. E io sono lontano da voi. Sei lontano, sì. Confronta a me, sei lontano. Prova Marco. Ehi a te, stavo cercando di capire se dipendeva da me questa, come appena di saturazione, ma è una cosa minima. Ho tolto il noise blanker, come si chiama. Provate a attenuarti, forse attenuando va un po' meglio, può darci che venga saturato lo stadio di ricezione in questo apparecchio, ho impressione. Al 3009 non lo fa, non a questi livelli. Non so cosa dirti, ma qui ho qua un po' di televisione accesa, uccellini che cantano, insomma, un po' di barana familiare. Marco, adesso ti invio 2 minuti di vocale, così senti la differenza e senti anche gli altri. E non mi convince assai a me sto apparecchio, non vedo picchi di modulazione, non vedo niente, sembra inerte, c'è anche il lecca, vediamo se funziona, eccolo, prova, 1, 2, 3, l'autoascolto del baracchino, l'eco regolabile, ma non mi chiedete come, perché qua è tutto a menù ed è un casino da ricordare, bisogna tenere sempre il manuale di istruzioni a portata di smartphone, quello digitale. Sì, un po' una palla sono questi, sto menu, contro menu, vabbè. Adesso c'è e rimane. Tino, come lo senti? Ma sinceramente lo preferivo senza, io devo andare, vi devo lasciare che stanno chiamando a poc'anzi. È un po' barattolosa, ripete appena, però è barattolosa, come in una tabullana per farti capire, ecco. Perfetto bagno. Mike, nel caso se ci siete dentro più tardi, adesso è ora di fare carica. Lancio il mic a Gianni, dai, aspetta, saluti che vado via. Ciao Tino, buona carica. Vabbè, siamo qua, adesso vediamo quanto ci possiamo trattenere. Nel caso a più tardi, se no alle prossime. Ok, avanti a chi tocca. Ciao Antonio, Tino, dai, ce la risentiamo alle prossimine. Ciao, avanti Marco. Ciao Tino, dai, sentiamo, l'ho tolto l'effetto eco perché... vabbè, io non lo uso, è tutto lì. Adesso vado ad ascoltare la registrazione di chi ha fatto Corso, che ha fatto Gianni, dai. Bianco per me. E a K. Chi ti ho già esci voti, o già. No, già va bene, tanto ti ripeto, preferisco questo. Io anche, la posso anche staccare, se piace il pulsante rosso. Com'è, normale? Sì, chiaramente si sente la differenza, beh, poi vabbè, siamo un gasto a un tiro di, a uno sputo. sì, con normale mi piace di più, perché è più pulita, dai. Vabbè, è normale. Ma come mi sono gabbassato, mi sono rotto da riballe, mi stava facendo impazzire. Che cosa tu? Questi giorni ce la portati in aria, allora sono salito qua sopra il tetto e ho cambiato il cavo. Nella lingua devi spostare quella pinzetta che va sulla bobina, devi fare delle prove e vedere praticamente il punto dove le stazioni sono più basse. Io credo, l'ho usata per qualche mese e col pennarello mi ero fatto praticamente tutte le tracce e poi avevo trovato il punto più basso, dai. Ho fatto 2-3 esperimenti e poi alla fine avevo trovato la posizione giusta, però con l'umidità mi accorgevo soprattutto quando pioveva che le stazionarie aumentavano e niente, quindi ne ho bugato tutto e l'ho restituita al legittimo proprietario. No vabbè, qua non è che aumentino più di tanto, perché io l'ho isolata bene, quindi no, non è che aumentano più di tanto. La sera se c'è umidità bastano ancora di più le stazionarie, ho notato. Io l'ho tutta isolata, però non è quello, no, era proprio il cavo che mi sta rompendo le palle, capito? Ho cambiato cavo, adesso va bene. Bene, Meda. Vabbè, io c'ho il 58. Il 58 che mi aveva dato gentilmente fornito da Claudio Sparviero. E ho piazzato quello. Quindi c'ho la boomerang con l'RG 58. Saranno forse 15, fai che siano 15 metri, forse tra i 15 e 18, dai, adesso non mi ricordo quanto erano, comunque giusto il tanto per scendere dal tetto e fare tutte le curve dentro la stanza per arrivare alla radio, dai. Comunque volendo, se busco un tubo un po' più alto, almeno la potrei alzare anche di un metro e mezzo, due metri, sicuramente magari qualcosina la guadagno, dai, ma non mi posso lamentare. Ma se per me va bene così, va bene, non c'è problema, cioè alla fine, anzi, guarda, la bombera la fanno, io penso che la facciano più di 40 anni, la facciano. Cavolo, un'antenna buona, Guarda, io ho puntato il radialino a nord, praticamente mi sono orientato e ho puntato, prima ce l'avevo più orientato a nord-ovest, verso Polo Torres, poi l'ultima volta che ero, quando mi si era truncata, che gli ho fatto quella crocchio, ho deciso di puntare mi sono fatto tutte le misure con lo stub, la regolazione del radialino per abbassare le stazionarie, e ti devo dire che anche salendo sul 555 le stazionarie sono basse, dai, per dirti il livello di escursione, ma già va bene, dai, non te ripeto, non mi lamento. Poca spesa e molta resa. La mia, quando era qua, che c'avevo sul tetto, e poi l'ho venduta, 1-1 in tutti i canali, 1-1, non si muoveva nemmeno qua. Eia, guarda, in questo momento ho commutato lo strumento e il lago adesso non si muove neanche, quindi stazionare 1,00000 e spiccioli. La mia era così, era prima mi stava rompendo le scatole, poi ho dovuto girarla. Da quando l'avevo girata non aveva più problemi, questa antenna non dava nessuna stazionaria più. Andava che una gannonata andava questa antenna. Infatti a chi l'ho venduta è stato soddisfattissimo, è stato, perché se ne è accorto che l'antenna va e poi pompa. Era l'antenna più venduta negli anni, tra gli anni 80 e 90, lo sanno tutti, lo sanno. Veglia, vediamo se Marco è rientrato, dai. Sì, eccomi qua. Stavo ascoltando lei con un altro canale, con l'altro ascolto, sì, la peggiora la modulazione, poi ripete troppo. Ok, detto ciò, punto. Ah, Marco, hai notato la modulazione molto più radiofonica rispetto al 3009 con questa radio? Sì, ma tra le due tu quale preferisci, il 3009 o questo? No, vabbè, io preferisco il 3009. Sì, radiofonica, boh, non saprei come definirla, la voce è sempre quella purtroppo, vabbè, quella non si può cambiare. Sì, sicuramente avrai un mic gain diverso, magari una preamplificazione di microfono diversa, si sente anche dall'EP, dallo sbattere dell'aria sul microfono che è leggermente più compressa la radio, mentre il 3009 risulta proprio molto, molto natural rispetto a questa, molto più verosimile, capito? Molto più vicino all'originale. Comunque va benissimo anche questa, per carità, però se dovessi scegliere io scelgo quella del 3009. Sì, allora, quali hanno fatto una boiata che non capirò mai. Praticamente la capsula a condensatore non si affaccia sull'apertura della griglia, ma è annegata nella plastica, cioè la capsula non ha sbocco con l'esterno. È una scelta che ha fatto la presidente, a me mi pare una stronzata, comunque così è, vedo che comunque è fedele, limpida, niente da dire. L'eco la rovina, quel cavolo di eco di serie la rovina. Magari non va bene per te ma va bene con un'altra persona, non è detto, Marco. E comunque va bene, pure il mio è così, c'è la capsula piccolina, adesso non ne sono sicuro, ma mi pare che sia così. Poi c'è la cassa fatta così, così è fatto, vero? Beh Gianni, che bevo. Eia, quindi in sostanza il microfono del presidente è, tra virgolette, affogato nella plastica senza nessuno sbocco tramite fessure, alette o intercapelli, insomma. Sì, anche quello sicuramente conta. E infatti a livello proprio di suono si sente la differenza. Cioè che è molto più... si sente che sente la voce che non è proprio fedele all'originale, ti ripeto. Comunque va benissimo uguale, perfetta, cioè, però io giustamente non posso mentire a me stesso e quindi ribadisco che preferisco il 3009 proprio come modulazione e soprattutto come risposta audio. Già vanno bene. Poi magari l'eco a lui non le si addice, la provo io adesso una bomba. Dipende anche del tipo, dalla timbrica di voce, dipende pure. Beh certo. Tanto che, ma tu stai usando il palmare originale della radio adesso? Certo che sì. Ah, bene meda, bene meda. Ma cos'è, dinamico o a condensatore? Dovrebbe essere a condensatore, se con quella capsula piccolina, non lo so, ma dovrebbe essere così. Ah, cos'è, alimentata a batteria il microfono? Assolutamente no. È alimentato dalla radio. capo è alimentato dalla radio, è tutto incorporato. Questo apparecchio che io ho comprato, avevo comprato quasi 10 anni fa, che era la prima uscita, non ha bisogno di niente, va bene come che l'ha fatto la fabbrica, mi capito? Vanno già bene queste radio, non hanno bisogno di microfoni. Poi io sono molto abituato a usare il palmare, a chi sono bucato da una berra e sono modulente, ero sempre abituato così, immaginiamoci come magari molti sono abituati a sedersi nella scrivania, sai, io no, io sono abituato, al massimo mi siedo nella sedia, però a me piace il palmare come microfono. Oh Gianni, ti avevo mandato un video, però c'è l'esposizione automatica che si sta incasinando, e quindi la luminosità sale e scende, comunque tant'è, vedi un po'. Gappa, vabbè, adesso, come si dice? I messaggi li apro su PC. Il telefono, quel barattolo lo sto usando solo come router, poi il resto lo faccio attraverso il PC, e quindi niente, adesso è il tempo di caricare e poi gli do uno sguardo. E che barattolo vai? No, un telefono è un vecchio Samsung che mi è stato regalato, ma lo uso principalmente come router. Poi cazzo, forse per me ritornerei cazzo ai telefoni a tasti. E senza display, ci aggiungo io. Va al progresso. E senza display pure, ci aggiungo io. Tipo il Sony dell'altra volta. Però bello, quello sicuramente all'epoca costava anche una follia media, perché c'era stato uno dei primissimi cellulari degni di questo nome, no? Che non fossero dei mattoni come quel Motorola famoso, che sembrava una torre di computer. Sì, guarda, adesso non mi ricordo dove l'ho messo, però se ho modo di trovarlo ti faccio vedere. Con una squadretta un metro a fianco, in quanto possa essere piccolo quell'accrocchio. A me me l'aveva venduto quel telefono lì me l'aveva venduto Stefano Manca di Pini gli Anticolpi. Adesso me lo sono ricordato, me l'aveva venduto proprio lui. Lui l'aveva pagato, praticamente comprato nuovo, l'aveva pagato un fottio di soldi che superava di gran lunga il milione del vecchio conio, ma lo superava, non dico che arrivava a due, ma costava una follia quel telefono. Ti ripeto, durante quella trasmissione sportiva negli anni 90, Raimondo Fianello faceva il messaggio promozionale con quel telefono. Adesso se riesco su YouTube, se riesco a trovare qualcosa inerente a quel telefono, magari cazzo te la linko. Ok, altro materiale in arrivo. È un D. Materiale, e dopo questo materiale? Su WhatsApp. È roba top secret però. Roba zozza. Sì, è oceno, è oceno. Oceno è il modo di spendere i soldi, dai. Cosa che è questa cosa? Di silicone alte 1,70 m, gambe e braccia snodabili, complete il tutto, è tutto, sembra pelle vera. Ma sto scherzando. Che cosa bisogna, pisciti di gomma pure. Opzionale, se prendi la versione trans c'è anche la piscita di gomma. Allora Marco, allora vediamo, questo è il President Richard, forse lo stavo confondendo con, con l'immagine di un'altra radio, cos'è? Multistandard M150 Plus, ah, quello con l'altoparlante frontale. No, ho preso io un abbacchio. Pensavo un'altra radio, dai. Eia. Sì, a colpo d'occhio poi sì, ci si confonde. Eia, così, dai. È una mia malattia quella. Stavo leggendo quando è la mattina in quei così news di Marazzotti che Elettra Lamborghini ha fatto delle le cosce a Rocco Siffredi. Anch'io vorrei vedere le cosce della Lamborghini e non solo, anche la collezione di macchine. Chissà, se entra in mano a Rocco la spacca. Adesso ci usciamo le camere di mezzo. Stiamo un po' scantonando. Comunque l'Elettra Lamborghini non è bellissima, perché ce n'è di meglio, ma è tanta ed è po' rosa, dai, è della tutta. E fuori di testa è un po' come delle ragazze. Però ti diverti, con quello un po' mattarelle fuori di testa ti diverti, quando sono troppo serie non ti diverti nemmeno, e poi piena i soldi, mi quella se metti il cappello con lei è fatta. Il mio gorrodone, che suo marito che va. Marco, l'ultimo messaggio mi hai dato dei dati in AM e in FM, ma quali sono quelli attuali? Sì, quelli attuali. Naturalmente il filtro mi ruba quei 2 watt, quindi saranno 10, 11, massimo 11 effettivi, validi, buoni, utili, dai. Ho capito, no, sto guardando le foto, sto aspettando che carichi il video, ma ci sta mettendo un po', non capisco, è anche leggero, no, vedo l'icona che gira, vedo la lavatrice centrifuga, ma non ho carica, boh. No, forse è stato un errore mio già, mi devo ricordare, se faccio un video, di come si dice, di ridurlo a 480p. Gli riduce in megabyte di un bel. Forse è meglio annullarlo e mandarlo in versione ridotta. Tanto quello che devi sentire è l'audio tuo, quello lì era. Tu a me lo puoi mandare come ti pare, ti piace. Io lo riceverò sempre. Converto il video, dai, lo riduco a 480p, perché così credo che sia Full HD, io l'ho messo come predefinito, però è eccessivo. Metti che se lo mandi a me non mi fa assolutamente niente, lo ricevo tranquillamente. Marco, ma infatti adesso non so come, con che livello di qualità l'hai registrato, comunque a questi livelli se non è niente di fondamentale o eccezionale va bene anche 360, 480, va bene così. Sì, questo è Full HD, il cacchio, ma lo sai quanti mega era? 54 megabyte. Posso ridurlo a 8 megabyte, 480p. Aspetta, Standard 480p, esegui, adesso me lo converte in pochi secondi. No, parla tu, non parte la conversione, dai. Cosa c'avevi? Huawei, cosa c'avevi? Xiaomi, come il telefono, Samsung, allora non mi lamento, per carità, cazzo. Questa tecnologia sarà la fine dell'essere umano, cazzo. Guardati la serie Black Mirror, Gianni, e vedi che fine farà l'umanità, grazie per colpa, grazie alla tecnologia. Cosa siamo da voi, tutti strani? Te l'ho detto come diventiamo tu in un prossimo futuro, tutti come Platinette, come Malgioglio, tutti truccati con le parrucche, tutti i culattoni transgender. Ogni amare messiglia a chi si giuro, vai. Quello dipende da come si abituano anche le persone, perché se io vedo anche il ragazzo di adesso, se nasci mascio, chi ribiazzi la cosa, non è così, rimarrà sempre così. Chissà chi sono guati, sono strani, sono tutti quanti molti mari di Zaibeto. Come ti ho detto l'altro giorno, Antonio, è la modernità che avanza. Sì, vabbè, già ne stanno facendo schifezze, però ne abbiamo già parlato e non ne voglio parlare ulteriormente. Ma c'hai capito, tipo genitori che dicono al bambino piccolo che può scegliere che sesso avere, se crescere come maschietto o come femminuccia, ma stiamo scherzando, e anche altre cose peggiori. Ma certo, ma stai scherzando, ma dove siamo? Ma non si è mai vista questa cosa. Io cercherò di indirizzarlo sempre alle cose, cioè, a com'è la vita veramente. Cioè, non voglio un figlio che si indirizzi a sé, così, cioè. E neanche una figlia, deve fare la base una serie, no? Non lo gipi tu. Comunque errore mio, credo di avere l'ho convertito, l'ho inviato, vediamo quanto ci sta arrivare adesso però. 8 mega, certo, circa 8 mega rispetto a 54 è un'enormità, molto molto ridotto. Bene Mela, sì, c'ho WhatsApp aperto adesso sul computer. Vediamo, sicuramente lo caricherà molto più veloce, dai. Sì, recapitato, è apparsa la seconda spunta bianca, sì, devo ricordarmi di questa cosa, perché da menu non lo puoi fare direttamente a bassa risoluzione, lo sai, puoi farlo full HD oppure tipo HD Ready, no, 1080x720, però non così ridotti di dimensioni, capito, di pixel. Ma me lo puoi mandare come se ti pare, ti piace, io lo ricevo sempre. Arrivata notifica, vediamo un po'. Esce, vedi? Lo sta caricando, è che c'ho un'altra applicazione aperta. Vediamo se Luca sta ancora saldando, operando a cuore aperto. Luca, puoi parlare? È concentrato, al travaglio. Cavolo, qua succede, sta non bene, no, di più. Se mette scendo giù, cazzo, va perché è più freddo. Aspetta un attimo. Dunque, come timbrica già, bene o male siamo lì, e nonostante l'apparecchio diverso, con un po' di acuti, sì, un po' di tipico delle M95 poi, niente di che, aspetta che controllo una cosa, hola, sì, come parli vicino qua, ma che strano, va bene, Gianni. Eia. Sto cercando di vedere il video, ancora non me l'ha caricato, boh. Oh, sono io che sono messo male. È probabile che con l'essere col telefonino che è buruveccio. Vediamo un po', aspettiamo, dai, ancora non ho visto niente. Capito, vabbè che qua c'ho il ripetitore davanti, me l'ha spedito in pochi istanti, vabbè, quando potrai lo vedrai, niente, era la tua, per farti capire la tua modulazione con quest'altro apparecchio, e siamo lì comunque, dai, non è molto differente dal solo audio che ti avevo mandato con l'audio di prima, dai. Fastidio ti dà in 27 il ripetitore? No, dicevo che fastidio me ne dà in PMR, mi azzera i segnali medio-bassi, lo sai, proprio me li fa scomparire, perciò io tengo il ricevitore e boh, non riesco, piuttosto che sovramodulare gente preferisco rimanere in Core X, ok. Boh, allucinata, ma dove ce l'hai di fronte proprio? Sì, sì, di fronte, 30 metri. Se piglio la fionda e gli tiro un crasto, lo becco. No, dicevo, è buono perché io ho mobile, che sarebbe Vodafone, e questo è proprio un ripetitore Vodafone, quindi ce l'ho incollato il ripetitore, cioè il segnale è qua sempre a manetta. Meglio così. Sono riuscito a aprire il video e a vederlo, sì sì, va bene, va bene. Beh, il segnale tuo è quello, come puoi vedere, di più non va. Forse un millimetro in più va, ma raro. Adesso proprio una bombetta, dai. Gli hai mandato il video, gli hai mandato. Sì, Anton, ha registrato un passaggio che ho fatto io, inquadrando la radio, giusto per sentire un po' il suono, dai, rispetto al 3009. No, già va bene, va bene, va bene, va bene. Ma c'è due apparecchi c'hai tu? No, io no, è Marco che ne ha un bel. Cavolo. Oh, è malato di scorta, perché non te l'hai messo. No, ce l'ho uno vecchio che avevo staccato da un vecchio camper, che lo devo aggiustare. Infatti prima utilizzavo quello, poi mentre stavo facendo i lavori mi è scappato il cacciavite e ho fatto casino. Infatti appena posso voglio cercare di rimetterlo in funzione, perché insomma è bello anche averlo, insomma, come ricordo, funzionante, dai. Ma cosa hai facendo con un cacciavite? No, stavo regolando un trimmer e mi è scappato e ha fatto corto con una resistenza, ho visto la scintilla e che praticamente non esce più di modulazione. Partito il finale, boh. Ho provato a cambiarlo, ma non è solo quello, sicuramente è saltato qualcos'altro. Come si dice, dovrebbe guardarlo uno bravo. Perché io ho una conoscenza limitata. Appena posso cercherò di farlo mettere a posto. È un vecchio baracchino degli anni 70, ancora con i quarzi. È un 40 canali, però ne ha quarzati 27 se non sbaglio. Era un vecchio baracchino giapponese degli anni 70. Era dentro un camper vecchio. L'ho salvato in extremis e niente, fino al momento che cazzo è giubato danno, dai. Fallo vedere a coso ad Antonello, magari giusto lo sistema, c'è più pazienza. Dai, quando capita adesso già c'è questa radiolina, appena c'è la possibilità già lo voglio rimettere in forma. Avanti Marco. Lui ha la tubercolosi, mamma mia, oppure il Covid, dai. Signori, detto ciò, io vi devo salutare. Inizio a cena la TV, a rilassarmi, a mettermi le babbucce e la coperta sopra le ginocchia. Ok. E ci sentiamo quando capita. Ciao Gianni, ciao Antonio, tutti quelli d'ascolto. Tanto adesso poi gli argomenti a quest'ora un po' si sventia, perché fine serata sono abbastanza cotto di, non cotto di beozia, cotto di un po' di stanchezza, ok? Ciao a tutti, alle prossime, vai Gianni. Bene Meda, bene, bene, bene Meda. Grazie della compagnia Marco, dai. Anche io ho quell'intenzione lì, quindi mi sa che ci concediamo un po' tutti. Dai, comunque ho sentito l'audio e che pensavo la mia modulazione fosse peggio, invece è gradevole, dai. Va bene così. Dai, anche io mi associo, prendo la palla al basso, dai. E quindi mi sa che ci salutiamo un po' tutti. Dai, buona serata Marco, buona serata Antonio e tutti gli ascoltoni sul 10. Ci aggiorniamo quanto prima, ok? Avanti Antonio. Buona serata da Bracco. Buonasera Bracco. State chiudendo. No, stavo, ero in ascolto, comunque. Comunque vi saluto e buonanotte a tutti. Ciao Bracco, ciao, ben sentito da parte di Marco. Saluta Roberto quando lo senti, ok? Buona serata a tutti, ciao ciao ciao. Appa, buona serata a te Marco e buona serata anche a te Gianni. Ok. E salutoni Bracco. Diciamo, ero in ascolto così, anche per passare un po' di tempo. E anch'io faccio QRT e vi saluto tutti, buonanotte. Gappa, dai, buonanotte anche a te. Ok, dai, buonanotte a tutti. Ah, pure io va, mi si gocco a che so che cracco. Ciao, ciao. Bene, bene, ciao Bracco, ben sentito, anche se per poco, dai. Ci aggiorniamo nei prossimi. Buona serata a tutti. A presto. E beh, spariti siete. Ma quali non condo? Ma parla con muro?